Lei descrive un quadro complessivamente fragile, quantomeno, su quello che è la formazione, culturale a questo e l'adattamento a questo cambiamento. Ci può segnalare però dei casi positivi, che sono, diciamo, anche dei modelli, un po' quello che Wikipedia è nel campo dell'informazione No, ci comune. sono, in realtà ci sono molti. Quando prima parlavo dei decisori, è evidente che i decisori rispetto agli insegnanti sono decisamente più indietro. Cioè, esistono nella scuola italiana una serie di buone pratiche. Molto banalmente, per fare un esempio dell'area della cintura milanese, a Corsico c'è un progetto, il progetto Bambino Autore, che raccoglie 43 scuole per l'utilizzo della tecnologia come strumento di comunicazione tra una classe e l'altra, addirittura tra classi italiane e classi straniere. Questa cosa è stata possibile però perché c'era un maestro e un gruppo di insegnanti, questo Stefano Merlo, che si è messo lì e da 8 anni ha implementato il server Linux, costruito la rete, fatto l'accordo di rete, così nelle Marche, Retemar, così in tante realtà italiane. Il problema è che, come al solito in Italia, questa cosa è lasciata in qualche modo alla volontà di autoformazione, voglio dire, un maestro prende 800 euro al mese, ne prenderà questo signore, faccio il caso suo, ma ce ne sono tantissimi altri, si è dedicato a questa cosa per passione, ha montato la macchina Linux da solo, ha implementato il tool per fare le classi virtuali, così tanti altri. Il problema è che a livello centrale le politiche che si sono tentate si sono arrestate sul problema finanziario e questi casi sono rimasti isolati. Risultato, quando va in pensione Merlo, così come i suoi omologi in tutte le regioni italiane, in tutto il sistema, voglio dire, a Reggio Emilia c'è il caso la Villetta piuttosto che il sistema delle scuole di Reggio Emilia, inventato da Malaguzzi, anche lì la tecnologia è usata per rappresentare i piani di realtà. Il problema è che sono isole o macchie, la macchia di leopardo, la questione è la trasferibilità dei progetti e la messa a sistema delle buone pratiche di tipo innovativo. E su questo effettivamente le risorse non sono state allocate e in qualche modo quindi rischiano i progetti di diventare appunto delle isole che dipendono esclusivamente dalla volontà del gruppo di insegnanti di portarle avanti. E quindi da questo punto di vista, in qualche modo, c'è una grande opportunità, devo dire, nel senso che nel 2013, come nota Silvio Slabini sulla voce.info, accadrà lo tsunami demografico, cioè il 50% dei dipendenti della pubblica amministrazione, di tutte le pubbliche amministrazioni, andranno in pensione, grosso modo 73-2013, 40 anni. Questa è una grande opportunità se non verrà gestita come al solito con il reclutamento di chiunque si trovi a circolare intorno a una pubblica amministrazione, sia essa una scuola, un'università o un ufficio pubblico senza, come dire, criteri. Quella è una grande opportunità perché entreranno nella scuola molte forze nuove. Sarebbe sensato che ne entrassero forse la metà di quelle che, insomma, comunque sarebbe anche un'occasione per ridurre i costi della pubblica amministrazione. In ogni caso, il problema è quello di sfruttare questa leva dell'ingresso nelle pubbliche amministrazioni di personale giovane per, come dire, mettere a sistema anche un percorso formativo in ingresso che permetta in qualche modo il cambiamento, culturale. È l'Ocse che lo dice, nel senso che è l'Ocse che segnala questa opportunità per la pubblica amministrazione italiana, perché negli altri paesi d'Europa non funziona così. Mentre noi abbiamo proprio questo picco che è derivante dal fatto che l'Italia ha fatto un grosso salto di apertura con i 68, i criteri del reclutamento là sono stati piuttosto laschi. Qualora questa nuova infornata, diciamo, nel 2013 di personale fresco venisse gestita attraverso piani di formazione e di selezione meritocratica, potremmo probabilmente anche la scuola italiana potrebbe fare uno scatto a livello di sistema, dove a livello invece, come dire, individuale o di singoli gruppi, forse già l'ha già fatto. Il rischio di questo è anche il fatto che si possono dare nello stesso comune realtà molto avanzate e realtà molto periferiche, con il fatto di dare opportunità ad alcuni, pur nello stesso comune, e toglierne ad altri che vivono nella stessa realtà, e questo ovviamente non migliora le performance di lungo periodo del sistema. Ecco, in una battuta, a questo 2013 si sta preparando la pubblica amministrazione e la formazione? Dunque, a livello decisori certamente no, nel senso che è chiaro che il 50% dei docenti universitari, il 50% degli insegnanti verranno sostituiti. Cosa dovrebbe succedere realisticamente? Dovrebbe succedere che da ieri, cioè dal 2005, si mettessero in opera dei sistemi di reclutamento che ci preparino a arrivare lì. Come sappiamo, le università e i concorsi sono bloccati, come sappiamo, le assunzioni nella pubblica amministrazione sono bloccate, come sappiamo. Evidentemente, come al solito, poi si rincorrerà il fenomeno. Il rischio clamoroso di tutto ciò è di nuovo l'ope legis. Cioè di nuovo l'infornata di personale a bassa qualificazione perché manca, non c'è più la possibilità di erogare il servizio. E questo obiettivamente è un compito che chiunque governi dovrà affrontare, perché altrimenti il rischio è abbastanza fatale.